Salva Danaio di Deborah Rosciani. Questo è l'ultimo bastione del capitalismo rimasto sulla terra. Qui a New York si vende e si compra tutto: oro, argento, platino, gasolio, propano, carburanti vari, zucchero e cacao. E naturalmente succo d'arancia concentrato e surgelato. Vedi quelli là ai telefoni? Stanno ricevendo ordinazioni dagli agenti per i beni di consumo di tutto il mondo. Dopodiché i galoppini consegnano le loro ordinazioni ai vari negoziatori. Stanno trattando la vendita del cotone. E quella è la zona dell'argento. Il rappresentante dei Duke comprerà come un forsennato subito dopo l'apertura. E noi aspettiamo che sia salito il prezzo. Esatto. Pensa che faccia faranno Randolph e Mortimer quando trasmetteranno il vero rapporto sul raccolto. Il mercato del succo d'arancia apre alle 9. Forza, diamoci da fare. Andiamo. Allora, già dallo spezzone del film, buongiorno da Deborah Rosciani, che abbiamo scelto per introdurre la trasmissione di oggi, avrete intuito il tema di cui vogliamo parlare. Il film è La poltrona per due, Una poltrona per due del 1983, da cui abbiamo tratto una delle scene finali che descrive l'anticipo di una seduta che sarà poi ad alta tensione, oggetto dell'interesse degli operatori del mercato in quella giornata descritta dalla scena del film, la quotazione del succo d'arancia, intorno alla quale viene ingaggiata poi una speculazione selvaggia in attesa, lo cita anche questa scena del film, della pubblicazione del rapporto sull'agricoltura che avrebbe dato indicazioni sull'entità del raccolto atteso di arance per quel momento, per quell'anno, le conseguenze sui prezzi. Per la verità poi raccontare la trama è un po' lungo, però ci è sembrato carino utilizzare questo spezzone per raccontare per la verità quello che sta accadendo da qualche tempo sui mercati internazionali e sulle quotazioni che stanno raggiungendo alcune materie prime. Il 2010 è stato un vero e proprio anno boom per praticamente quasi tutte le commodities, con rarissime eccezioni. Noi siamo abituati a parlare quasi esclusivamente di petrolio e oro quando vediamo le quotazioni giornaliere, appunto, che si manifestano sul mercato, ma i veri protagonisti del 2010 sono stati tanti altri: l'argento, il rame, il caffè, il cotone, che hanno raggiunto prezzi record sulla scia della domanda che ne hanno ripreso a fare le economie emergenti, i fondi di investimento che stanno accumulando ed accumulando. Ci sono poi anche dei fattori ambientali che incidono ovviamente sulle quotazioni. Qualche giorno fa due delle firme più autorevoli del Sole 24 Ore, quella di Luca Paolazzi e quella di Fabrizio Galimberti, scrivevano: c'è qualcosa che è tornato ai livelli pre-crisi, anzi ben oltre. Non la produzione industriale nei paesi avanzati, non l'occupazione, non i tassi e neppure le borse, ma i corsi delle materie prime industriali. Questa corsa, hanno aggiunto, avrà magari pause e anche ripiegamenti, sarà anche stata alimentata momentaneamente da problemi di offerta, sarà stata anche accelerata dall'afflusso di capitali finanziari in cerca di maggiori rendimenti, ma è soprattutto sostenuta da fattori di fondo strutturali che spingeranno le quotazioni ancora più in alto nei prossimi anni. Allora, ci è sembrato interessante, in una delle prime puntate dell'anno di Salva Danaio, raccontarvi quello che è successo nel 2010. Cosa sta succedendo a questi mercati, ma soprattutto quali suggerimenti di investimento si possono dare a chi volesse approfittare di questa tendenza, perché è un mercato molto volatile, non è un mercato per tutti, è un mercato al quale ci si può approcciare utilizzando solo ed esclusivamente determinati strumenti di investimento. Allora, noi stamattina abbiamo due esperti del settore, uno lo stiamo raggiungendo a Londra, un altro già collegato telefonicamente con noi. Intanto lo saluto: Paolo Kaufmann, analista del mercato delle commodities, presidente, se non sbaglio, anche di Kaufmann & Son, che è una società che offre soprattutto consulenza alle industrie in questo settore. Kaufmann, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie di essere con noi questa mattina, perché peraltro poi, a prescindere dal fatto che è un mercato complicato se ci si vuole avventurare in questo settore per un investimento, è comunque un mercato estremamente affascinante, perché ogni commodities racconta una sua storia e anche le modalità e le ragioni per cui certi prezzi sono stati raggiunti effettivamente sono delle storie dal punto di vista economico-finanziario molto attraenti, molto molto interessanti, come dicevo. E tra un po' ci collegheremo con Massimo Siano da Londra, che è responsabile per il mercato italiano di ETF Securities, che è l'unico emittente a Piazza Affari di ETC, che sono gli Exchange Traded Commodities, sono praticamente gli equivalenti ETF che investono appunto nel mercato delle materie prime, sono strumenti appunto di investimento più importanti in questo mercato. Chiaramente avete l'opportunità di chiamarci all'800 24 0024 se volete, potete scriverci al 349 238 6666 6 oppure anche all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, perché ho anche la mail aperta qui sui nostri monitor. Prima di affrontare il tema specifico delle materie prime, vediamo un po' stamattina la borsa come si sta comportando. Borsa cauta, come vi dicevo anche nel giornale radio, in attesa del dato sulla disoccupazione americana che sarà diffuso nel primo pomeriggio alle 14.30, è l'andamento appunto del mercato del lavoro americano relativo al mese di dicembre, quindi ci sono molte attese, si capirà anche un po' il 2010 complessivamente in termini occupazionali americani come è andata. Lo sappiamo bene che è andata benissimo, perché l'emorragia di posti di lavoro dagli Stati Uniti non si arresta, ma vedremo se in qualche maniera dicembre va compensato ed attenuato una tendenza annuale che è stata davvero terribile. Oggi Parigi scende dello 0,6%, Francoforte perde lo 0,20%, Londra perde lo 0,58%, mentre Milano, che è arrivata a perdere un punto stamattina a metà seduta, adesso guadagna lo 0,11%, quindi è una giornata anche abbastanza volatile, se vogliamo. Il mercato oggi ha guardato ad alcuni dati tedeschi. Le esportazioni nel mese di novembre sono salite del 21,7% a 88 miliardi di euro, mentre le importazioni sono salite delle 33 a 75 miliardi. Quindi c'è uno scompenso della bilancia commerciale tedesca, ma il mercato non ha guardato con gravissima preoccupazione appunto a questa statistica tedesca di questa mattina, che peraltro ha inciso anche nel rapporto euro-dollaro. Stamattina l'euro sul dollaro era ai minimi da un mesetto a questa parte, poi ha salito al di sopra di 1,30, adesso è di nuovo a 1,2980. I titoli migliori di Milano: Toz più 3,26, Campari più 2,76, Ansaldo più 1,87, Luxottica più 1,78. Su Toz e Luxottica c'è un giudizio positivo degli analisti di HSBC, che hanno alzato appunto il loro rating su questi due gruppi che operano nel lusso. Abbiamo un più 1,64% anche per Telecom, anche in questo caso per una raccomandazione positiva che è stata espressa dagli analisti di Citigroup. Diassorin più 1,50, Autogrill più 1,30. Questi titoli con i rialzi più vistosi, mentre perde il 2,47% Buzzi Unicem, quindi giornata no per il settore del cemento. Bulgari, che nell'ambito dello stesso report degli analisti di HSBC, che ha coinvolto appunto Toz e Luxottica, questo report invece non promuove Bulgari, per il quale invece anzi il giudizio è stato tagliato, e il titolo infatti ne risente, perde un punto. A2A meno 0,67, l'automatica meno 0,58. Il petrolio stamattina sui mercati asiatici quotava 88,84 dollari per quello che riguarda il WTI, il greggio di riferimento americano. Per ciò che concerne il Brent, il greggio di riferimento europeo, era 94,10 dollari al barile, e questo è il presupposto che utilizzo per lanciarvi la scheda di oggi, nella quale vi descriviamo cosa è successo nel mercato delle materie prime nel 2010. Sui mercati il nuovo anno è partito con il rally di petrolio e metalli, oro e argento in testa, mentre l'euro è scivolato a quota 1,33 dollari. La crisi del debito in Europa continua a tenere sotto pressione la moneta unica, che ha chiuso il 2010 con un ribasso del 6,5% contro il dollaro, e ad alimentare di conseguenza la fuga dal rischio, con gli acquisti che si concentrano su oro, argento e materie prime in generale. Investimenti sicuri che mettono al riparo anche dagli scossoni sul valutario e dal rischio di una ripresa dell'inflazione. Nel dettaglio, la nuova corsa all'oro ha spinto le quotazioni verso i massimi. Dopo aver chiuso il 2010 con un rialzo del 30%, il più forte dal 2007, il metallo giallo è risalito nella prima seduta dell'anno sopra 1.420 dollari all'oncia, riavvicinandosi al record toccato il 7 dicembre, ossia 1.432,50 dollari. Ai massimi da 30 anni l'argento, salito a 31,27 dollari l'oncia, la quotazione più alta dal marzo dell'80, dopo il rialzo dell'83% messo a segno nel 2010. E fra i metalli industriali è record per il rame, a 4,50 dollari la libra, mentre il palladio è ai massimi da marzo 2001, a 807,90 dollari l'oncia. Metalli, ma non solo. Il 2010, che si è appena concluso, ha visto rialzi a doppia cifra per tutte le materie prime, dal più 90% del cotone al più 52% per il caffè, al 27% in più per lo zucchero grezzo. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi, oppure salvadanaio@radio24.it. Una tendenza da monitorare attentamente, che sicuramente per gli operatori del settore ha reso attraente appunto gli investimenti in questo ambito e grandi rendimenti e grandi risultati lo scorso anno. C'è però anche tutto l'aspetto delle problematiche che questa situazione sta determinando a livello sociale. Proprio stamattina Vittorio Darolde, nelle storie del Sole 24 Ore, parla della rivolta per il pane e della peste delle banane, del boom dei prezzi alimentari e di tutto il subbuglio anche che comunque il mercato delle commodities agricole con questo andamento sta determinando in determinati paesi. Abbiamo intanto raggiunto Massimo Siano. Siano, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Eccoci qua, io l'ho già presentata, i nostri ascoltatori sanno che lei è responsabile per il mercato italiano di ETF Securities, ho già salutato Paolo Kaufmann. Prima di cominciare la mia chiacchierata con voi, direi di stamattina avviare la trasmissione con una domanda di un ascoltatore, immediatamente, così ci togliamo anche, come dire, il sassolino dalla scarpa, Angelo, perché in realtà poi la sua riflessione era quella dalla quale sarei partita con i nostri ospiti. Intanto buongiorno e buon anno, Angelo. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, sono un po' influenzato per cui guardi, è difficile trovare qualcuno che non lo sia, ma non sa che decimazione di ospiti in questi giorni, devo cambiare in continuazione le puntate in corsa, ci dica. Niente, la mia domanda era molto semplice, forse un po' più tecnica di come l'ho descritta prima. Voi non pensate che l'aumento di tutte le materie prime, perché sia metalli, non metalli, agricole, eccetera, eccetera, sia dovuto anche al fatto che ci sia un sacco di massa monetaria in circolazione? Cioè che è stato aumentato, abbiamo visto adesso gli Stati Uniti 600 billions, ma se guardiamo negli ultimi 2-3 anni sono trillions, cioè è una inflazione mascherata. Angelo, la ringrazio, guarisca presto naturalmente, e le dico subito che questa sua riflessione era esattamente quella che faceva un'altra bravissima collega che si occupa per il Sole 24 Ore di materie prime, che è Sissi Bellomo, e in realtà ha attribuito appunto larga parte della tendenza delle quotazioni delle commodities dello scorso anno proprio alla iniziativa, la dobbiamo definire in gergo tecnico, poi magari la spiegheremo meglio, di quantitative easing che ha portato avanti la Federal Reserve, la banca centrale americana, negli ultimi mesi. Allora io da questo presupposto parto con i nostri ospiti di stamattina. Massimo Siano, comincio da lei. Lei peraltro ha un punto d'osservazione molto interessante, che è quello di Londra, dove c'è il London Metal Exchange. Quanta colpa ha questa continua iniezione di liquidità che le banche centrali hanno dovuto portare avanti negli ultimi mesi per sostenere l'economia nell'esplosione dei prezzi delle materie prime? Ma io faccio i complimenti allo spettatore, molto attento. E io sono assolutamente d'accordo con lui. Se dobbiamo trovare una colpa o una ragione, o un merito all'aumento del prezzo delle materie prime su scala mondiale, una delle ragioni principali è proprio il fatto che la Federal Reserve continua a stampare moneta. Io sempre dico agli investitori istituzionali con i quali parlo quotidianamente, c'è una grande differenza tra il dollaro e l'oro. Il dollaro si può stampare, l'oro no. E quindi quanto più si stampa dollari, quanto più si perde fiducia sul dollaro e quanto più aumenta la fiducia sull'oro. Allora, volevo fare la stessa considerazione anche con Paolo Kaufmann per capire appunto se fosse d'accordo anche rispetto a quello che è stato detto fino a questo momento, se ci può spiegare anche lui dal suo punto di vista, dalla sua piattaforma di osservazione, chiamiamola così. Lui tra l'altro, Kaufmann, è particolarmente specializzato sulle materie prime di tipo industriale e già ho visto qualche sua intervista rilasciata in questi giorni su altre riviste che sostiene che l'anno che arriva appunto sarà proprio l'anno dell'alluminio, se non ricordo male, Kaufmann. Iniziava sempre con la A, era acciaio. Acciaio, sì, mi sono sbagliato adesso perché non, tra tutti gli appunti che ho sotto gli occhi non mi ritrovo l'articolo al volo. Però insomma, l'iniezione di liquidità sta provocando questa tendenza, quindi nel momento in cui comincerà ad essere concretizzata la famosa exit strategy da parte delle banche centrali, che comunque viene più volte rinviata, sta continuando ancora ad essere rinviata, vedremo un crollo delle quotazioni? Ma diciamo che l'ascoltatore ha sicuramente posto l'accento sul QE, quindi evidentemente ha centrato il problema. Questa immissione di liquidità che è stata fatta negli ultimi 6 mesi ha trovato facili investimenti nelle materie prime come rifugio dall'inflazione e dalla svalutazione del dollaro. Evidentemente questo fattore è stato solo un fattore aggiuntivo rispetto al trend sottostante, che è quello che vede comunque una Cina che da diversi anni è grande consumatrice di materie prime, sia materie prime industriali che anche agricole, e quindi evidentemente questo è andato a impattare sui prezzi. E dall'altra parte quest'anno abbiamo avuto dei fenomeni naturali, come si dice nella vostra scheda, che hanno alterato effettivamente le condizioni, perché i grandi incendi in Russia hanno portato degli scompensi sul mercato dei grani, e dall'altro lato le inondazioni che abbiamo avuto in Australia stanno provocando delle scompensazioni sull'aeronautica. Quindi evidentemente delle scompensazioni sul mercato dell'Aeronor, quindi ci sono dei problemi in Australia, che è il secondo produttore mondiale di minerale di ferro, con questi allagamenti abbiamo avuto delle riduzioni di produzioni, e quindi evidentemente avremo delle salite dei prezzi. Quindi i mercati delle materie prime sono molto sensibili, oltre che all'aspetto finanziario, anche proprio all'aspetto naturale. Allora, queste sono le riflessioni di partenza. Poi andremo ad analizzare appunto commodity per commodity quelle che hanno avuto l'andamento più forte, più intenso nel 2010, quali ragioni si devono appunto individuare per motivare la corsa dell'una o dell'altra. Tra l'altro c'era anche un pezzo molto bello, molto divertente per certi versi, del collega Nino Ciravegna del Sole 24 Ore, che praticamente ha descritto tutta la sua giornata raccontando come effettivamente ogni nostro movimento fosse condizionato effettivamente anche dall'utilizzo di molte materie prime, dal primo caffè del mattino all'utilizzo appunto dell'energia elettrica, tutti gli alimenti che consumiamo e quant'altro, e praticamente ha sommato tutti i rincari dei prodotti che usiamo quotidianamente, portando questa cifra al 2011%. Poi magari riesco a spiegarvi un po' meglio il conteggio che ha fatto. Noi ci dobbiamo fermare, abbiamo adesso la nostra prima pausa. 800240024 per le vostre considerazioni, a tra pochissimo. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Le pause in questo periodo sono molto brevi e quindi insomma riusciamo ad ampliare notevolmente anche le nostre trasmissioni. Allora, analizziamo i prezzi delle materie prime, cosa è successo nel 2010 e cosa potrà ragionevolmente succedere in quest'anno, perché in tutti indicano ancora quotazioni molto forti, molto spinte per tutto il 2011, anche se ci saranno forse dei momenti di correzione. C'è anche adesso il Capodanno cinese, che secondo qualcuno darà un pochino di freno appunto al volo dei prezzi delle materie prime. Ma Massimo Siano, riprendo da lei, da Londra. Ricordo che Massimo Siano è responsabile per il mercato italiano di ETF Securities, che è l'unico emittente di ETC a Piazza Affari. C'è stato molto movimento in questi ETF che replicano i prezzi delle materie prime lo scorso anno, anche tra i piccoli risparmiatori. Qual è stata la vostra sensazione? Beh, assolutamente sì, guardi, le do un'anteprima. Io dal 2007 al 2009, a fine 2009, ho raccolto in Piazza Affari un miliardo di euro di attivo gestito, di patrimonio, sugli ETC, cioè un miliardo. Gli investitori italiani hanno comprato ETC per un equivalente di un miliardo di euro, che è tanto, no? E hanno diversificato le commodities in maniera già massiccia. Soltanto nell'ultimo anno, solo negli ultimi 12 mesi, io ho raddoppiato, cioè ho fatto quello che avevo fatto dal 2007 al 2009. Quindi questo le può dare l'idea. Io ho raccolto 2 miliardi di euro di attivo gestito in borsa italiana. Sostanzialmente nel mercato degli ETF il 10%, quindi era inimmaginabile soltanto 5 anni fa, il 10% del patrimonio investito negli ETF in borsa italiana è sugli ETC, cioè sulle commodities. Incredibile. Quindi assolutamente stiamo vedendo una rivoluzione nel portafoglio degli italiani. E infatti, quali sono stati quelli che sono stati maggiormente apprezzati? Ovviamente, come ho già detto prima, noi abbiamo visto soprattutto delle tendenze di crescita sul rame, sull'oro e l'argento, il petrolio che sta cominciando di nuovo a risalire la china, e questo un po' ci preoccupa, perché poi dovremo vedere anche sull'inflazione se si ripercuoterà o meno, ma non ci sono moltissime preoccupazioni su questo. Quali sono quelli che hanno trovato il maggior consenso dei risparmiatori italiani, siano di quelli che appunto vengono intermediati attraverso Piazza Affari? Certo, in assoluto l'oro fisico. Il physical gold e gold bullion securities hanno avuto un aumento eccezionale, Devo dire la verità, quest'anno gli italiani hanno migliorato la loro diversificazione anche tra le materie prime. Quindi qualitativamente diciamo sono intervenuti anche per sistemare il portafoglio, in che modo? Perché nei primi sei mesi dell'anno, quando l'economia sembrava andare, ritornare nella direzione giusta, quindi vi erano dati positivi un po' dappertutto sulla crescita economica, non soltanto in Asia come si sta verificando, ma anche in Occidente, allora i combustibili fossili avevano più o meno il 36-37% della diversificazione del portafoglio delle materie prime dell'investitore italiano, mentre i metalli preziosi erano attorno ai 30%, 30-33%. Quindi i metalli preziosi, particolarmente l'oro e l'argento, sono ovviamente più conservativi, sono per chi pensa che l'economia vada male, quindi sono un bene rifugio. Dalla crisi greca, dalla crisi greca in poi, quindi negli ultimi 8 mesi dell'anno, quando l'economia purtroppo ha dato segnali più negativi che positivi, l'investitore italiano ha fatto uno switch, cioè ha diminuito il suo investimento sui combustibili fossili in proporzione e ha sovrappesato l'esposizione negli ETC sull'oro e l'argento. Quindi abbiamo anche un investitore italiano più attento, non compra con qualsiasi commodities, compra le commodities più appropriate. Stiamo diventando anche un paese di analisti di commodities, non soltanto di analisti azionari e obbligazionari. Benissimo, allora per voi naturalmente. Allora Paolo Kaufmann, ritorno a lei proprio per fare anche delle valutazioni sulla sostenibilità delle quotazioni attuali, perché lei sempre nell'articolo che ho citato prima in questa cover story del Mondo di qualche giorno fa, dove indica che è l'acciaio la scommessa per i prossimi 2 anni, parla di metallo giallo, riferendosi all'oro, in moderata salita per quest'anno. Quindi questi $1,400 l'oncia, anche per chi volesse magari si accorgesse adesso delle opportunità offerte dalle materie prime, è un livello dal quale partire con interesse, oppure attenzione perché è un livello dal quale invece ci potrebbe essere una vistosa marcia indietro imminente? Ma diciamo che ogni volta che parliamo di materie prime dobbiamo fare molta attenzione al fattore della volatilità, quindi evidentemente l'oro viene già da alcuni anni di salita molto molto positivi, e quindi il potenziale investitore che si avvicina a questo mercato deve sapere, come sicuramente saprà, che sta entrando su dei livelli massimi, quindi evidentemente c'è un potenziale di crescita, ma non così ampio come immaginiamo che ci sia stato nel 2009 o anche nel 2010. Dall'altro lato, ogni volta che approcciamo il mercato commodities dobbiamo considerare che investiamo in due fattori: da un lato la materia prima, ma dall'altro lato il dollaro. La valuta. Perché tutte queste materie prime sono quotate in dollari, quindi evidentemente dobbiamo stare molto attenti a tenere sotto controllo l'andamento del dollaro. Quindi evidentemente sicuramente l'oro potrà rimanere nella sua tendenza positiva, però abbiamo altre materie prime magari più sottovalutate, che sono state più sottovalutate nel corso di quest'anno, che magari potranno avere dei rialzi più favorevoli. Tra l'altro, una delle motivazioni tra le tante che hanno portato l'oro a questa crescita incessante che si è manifestata in tutto il 2010 c'è stata anche la decisione della Banca Centrale Indiana, che ha elevato da 23 a 30 il numero degli istituti autorizzati ad importare oro ed argento, una decisione che, hanno detto appunto i giornali nei giorni scorsi, potrebbe accrescere ulteriormente i consumi in un paese che è già il maggior importatore mondiale dei due metalli preziosi. Kaufmann, rimango a lei sull'argento, che prospettive invece ci dà? È uno degli asset più remunerativi nel 2010, ha avuto un apprezzamento di oltre l'80% e proprio il 3 gennaio ha aggiornato il suo record trentennale a $31,22 l'oncia. Per qualcuno il traguardo dei $40 è proprio dietro l'angolo. A libra, no, mi sono sbagliata, che cosa ho detto? Non l'oncia, libra, vero? L'argento ha questa unità di misura. Allora, direi che l'argento va bene per gli investitori che sono dotati di cuore molto molto forte, perché ha una volatilità molto molto elevata. Negli anni 70 alcuni si ricorderanno le speculazioni dei fratelli Hunt, che realizzarono dei grossi guadagni e poi persero delle somme enormi, portando l'argento a livelli molto molto elevati, anche al doppio rispetto a quello che siamo. Quindi evidentemente l'argento è caratterizzato da grande volatilità. Mi fa molto piacere la nota che faceva prima il collega da Londra sul fatto che gli italiani stanno mostrando comunque una capacità di andare a selezionare le commodities anche più particolari, perché in effetti gli ETF stanno andando in questa direzione, vale a dire tradizionalmente avevamo visto che quando si parlava di commodities si parlava sempre di oro e argento, oggi invece sta entrando proprio nella cultura degli italiani il fatto di guardare a un paniere più ampio che comprende gli energetici, gli industriali e gli agricoli, quindi direi che questo è proprio il tema di attenzione. E infatti, anche perché magari, ecco, chiaramente adottando un approccio molto prudente e magari riservando a questo investimento una quota ragionevole del proprio portafoglio, lo si può anche utilizzare, non so se siete d'accordo con questa teoria, anche per eventualmente proteggere il proprio portafoglio da, se ci fosse, non è dietro l'angolo ma magari nel medio periodo appunto potrà riaffacciarsi dall'inflazione. Siano, che cosa ne pensa? E poi, visto che parlava appunto di un miglioramento anche della capacità di esposizione nel mercato delle materie prime da parte dei piccoli investitori, oggi per esempio gli ETC coprono tutte le materie prime in circolazione? Bella domanda. La prima, vorrei dire una cosina sull'inflazione. Sì. Legandomi all'euro-dollaro. Dunque, è vero, c'è stato negli ultimi 20 anni, è innegabile dirlo, basta vedere i grafici, c'è stata una correlazione inversa, storica, fino all'anno scorso, tra l'andamento del dollaro e l'andamento delle materie prime, nel senso che saliva il dollaro e scendevano i prezzi delle materie prime e viceversa. L'anno scorso, nel 2010, è successo esattamente il contrario, quindi si è rotta anche la correlazione storica tra il dollaro e le materie prime, e qui poi mi ricollego all'inflazione. In sostanza l'euro-dollaro è sceso da livelli di fine 2009 che erano attorno a 1,50, 1,45, 1,50, fino adesso che siamo a 1,30. Siamo attorno a 1,30. Eppure vediamo che insomma le materie prime hanno fatto delle performance che tutti del sappiamo. Del tutto decorrelate, sì. Quindi ci sarebbe l'investitore si sarebbe aspettato, in base alle correlazioni storiche, esattamente il contrario. Invece quest'anno la correlazione storica la correlazione inversa storica, questo è il termine giusto, tra dollaro e materie prime non c'è stata. Questo però, e mi collego qui sull'inflazione, è un dato per l'euro molto preoccupante, perché se l'euro se l'euro sale, il dollaro scende, le materie prime salgono, ma l'investitore italiano è protetto dalla risalita dell'euro. Se l'euro scende, il dollaro sale, le materie prime scendono e quindi l'investitore italiano, non, in base a questa correlazione storica, non dovrebbe preoccuparsi dell'inflazione perché i prezzi delle materie prime scendono. Ma cosa succede se sale il dollaro e salgono le materie prime? Cosa succede? E questo è quello che sta succedendo adesso. Quindi il rischio è, in Europa, non soltanto avere l'inflazione, ma avere l'inflazione sommata alla stagnazione, la famosa stagflazione. Sì. E questo è quello che è avvenuto negli anni 70 e potrebbe portare a un circolo vizioso di aumento forzato dei tassi di interesse per abbassare l'inflazione senza un aumento della produttività o senza crescita economica. Non è uno scenario oggettivamente molto ottimista. Questo. Non è ottimista, ma è realista, è un scenario che si potrebbe verificare, secondo lei? Si sta verificando. Sì, si sta verificando. Kaufmann, è d'accordo? Eh sì, il rischio c'è. È evidente che la rottura di questa correlazione storica, anche se abbiamo già avuto in passato dei movimenti simili a quello che abbiamo avuto in questo trimestre, nell'ultimo trimestre dell'anno, è evidente che questo rischio è presente. Non ho fatto completare la domanda a Massimo Siano sulle tipologie di ETC che la sua società confeziona, che quindi poi distribuisce e permette appunto agli investitori italiani, appunto attraverso la piattaforma di Piazza Affari, di investire su questi strumenti. Se tutte le tipologie appunto di commodities sono coperte da questo tipo di prodotto, perché stavo così valutando, sempre leggendo un po' gli articoli di questi giorni, che ad esempio lo zafferano ha avuto una crescita del 138% per quello che riguarda le quotazioni, ed è stata la materia prima che ha avuto l'aumento più incredibile, a tre cifre addirittura, insieme all'antimonio e al mentolo. Non credo che abbiate degli ETC anche su questi prodotti. Purtroppo no, ma... Quindi con dispiacere lo dici. Abbiamo, dunque, per formulare un ETC, ovviamente queste sono cose che gli investitori comuni non sanno, per fortuna loro, ecco. Noi dobbiamo replicare la performance di un indice di materie prime, che in questo caso è il Dow Jones UBS, e il Dow Jones UBS ha come caratteristica principale il fatto che scelga o selezioni le commodity sottostanti, le materie prime sottostanti all'indice, in questa maniera: due terzi in base alla liquidità che hanno nel mercato dei future, caso oppure mercato over the counter, come loro, e un terzo in base alla produzione. Quindi sostanzialmente, se la materia prima non è sufficientemente liquida, la materia prima viene automaticamente esclusa dall'indice e noi non possiamo fare l'ETC, perché l'ETC replica soltanto l'indice Dow Jones UBS. Allora, è un discorso abbastanza complesso, le chiedo un attimo di pazienza, andiamo in pausa, sentiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi magari appunto sul funzionamento e la natura tecnica anche dell'ETC. Per tutti gli ascoltatori, ce ne sono tanti interessati, ci ritorniamo fra qualche istante. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi, e adesso do subito spazio, appena rientriamo, anche all'ascoltatore di Macerata. Massimo, tra poco. Salva Danaio. Prima di andare di nuovo agli ETC, volevo sentire Massimo da Macerata, così esploriamo anche altre materie prime che sono oggetto dell'interesse dei nostri ascoltatori. Massimo, buona giornata, buon anno. Salve, buongiorno, buon anno anche a voi, grazie per avermi richiamato. Ci dica tutto. Volevo chiedere ai vostri cortesi ospiti innanzitutto una previsione sulla commodity natural gas, sul gas naturale. Che forse è l'unica commodity o una delle poche che è andata contro tendenza negli ultimi periodi, infatti, avendo avuto un tracollo notevole. E poi volevo anche capire il motivo per cui lo strumento, l'ETC appunto del natural gas, non segue sempre fedelmente il sottostante. Questo anche al netto di eventuali fattori tecnici come il cambio euro-dollaro o anche altri fattori come il contango. In particolare è uno strumento che vedo che accentua nelle fasi di ribasso e tipicamente non si riallinea nelle fasi di rialzo con il sottostante. Tra l'altro, volevo capire quali erano i motivi. Le dinamiche appunto per cui c'è questa tendenza. Tra l'altro lei ha citato una parola per la quale io mi sono anche un po' avventurata nel tentativo di capire questo meccanismo, quello del contango. Non ci sono riuscito, ho fallito completamente. Adesso speriamo che stamattina gli ospiti mi aiutino ad avere un po' più di chiarezza. Però volevo intanto indare in primo luogo al mercato in termini generali, quello del gas naturale. Kaufmann, come mai questa è una delle poche risorse appunto rispetto a tutte quelle che abbiamo analizzato ad aver avuto una tendenza non brillante nel 2010, tutt'altro? Sì, il natural gas è il fanalino di coda del 2010, in effetti ha deluso molti investitori. Anche se non lo vedo nelle classifiche, perché vabbè, poi ci sono anche il Sole 24 Ore cita come uniche due materie prime che hanno chiuso l'anno in negativo il cacao, con le quotazioni in calo dell'8,76%, e il tè, il best pidast, il meno 3,62%, c'è anche questa variazione, varietà di tè. Kaufmann. Però la notizia positiva è che il gas proprio nella parte finale dell'anno, a dicembre, ha rotto questa tendenza di discesa, infrangendo i 4,30, e in effetti alcuni fondi si stanno anche riposizionando all'acquisto di gas. Questo anche perché andiamo verso una stagione tradizionalmente di basso di destoccaggio, e quindi evidentemente questo sta influenzando gli acquisti. Oppure dal punto di vista tecnico avrà trovato un supporto al di sotto del quale non andare. corretto, Deborah, vedo che è molto ferrata. Sì, in analisi tecnica, non esageriamo. Tecnico, per cui diciamo che il supporto a 4 ha tenuto, probabilmente anche l'ascoltatore ha visto questo supporto e ha notato la rottura di questo trend ribassista, e in effetti c'è anche un nuovo massimo. Il gas, ecco, come dicevo proprio prima, è una di quelle commodities da monitorare con attenzione, primo perché comunque il comparto dell'energy sta risalendo, il petrolio ha rotto in dicembre un sideways laterale, interrompendo questa tendenza laterale di tutto il 2010, e il 2011 sembra che sia un anno interessante per l'energy, quindi sia gas che oil. E insomma, al di sotto di quei livelli visti probabilmente non ci si andrà, per cui prendiamola un po' come occasione di investimento. Mediamente si fa anche così, si compra sulla debolezza, anche se questo è un mercato un po' più complicato, come ci diceva l'ascoltatore. E allora, Massimo Siano, vengo da lei. Come mai, quando le quotazioni del gas naturale, che già sono state in discesa, il corrispettivo ETC amplifica la discesa? Per quale meccanismo tecnico, se ce lo può spiegare, se è semplice da spiegare anche ai nostri ascoltatori? Magari questo può capitare anche ad altri ETC che riflettono le quotazioni di altre materie prime. Sì, dunque l'effetto si chiama effetto contango. Eccolo là. Non è purtroppo facile da spiegare in un minuto. Io lascerò i miei dati a voi del Sole 24 Ore. Possiamo dare una spiegazione allora, una mail? Sì, perfetto. Lo spettatore, se volete li lascio anche in trasmissione. No, ma questo lo intermediamo noi volentieri. Quindi c'è praticamente una ragione di natura tecnica per cui se c'è una discesa della quotazione della materia prima, l'ETC farà altrettanto, ma anzi amplifica il ribasso. Esatto. È possibile che accada. Se la curva è in backwardation. Il problema è che sono due termini tecnici, contango e backwardation, difficili da spiegare in due minuti. D'accordo, la ringrazio per l'onestà intellettuale. Allora magari andiamo a verificare altre materie prime, le motivazioni per cui sono andati in un certo modo e se gli ETC corrispondenti hanno fatto altrettanto. Per esempio il caffè, che ha chiuso il 2010 segnando i massimi dell'anno, il Robusta in particolar modo sta crescendo notevolmente. Quali ragioni ci sono, Siano, dietro a questa tendenza? Allora, le do tre dati che possono assolutamente chiarire la situazione sul caffè. La media di produzione di caffè negli ultimi 5 anni è stata di 3,6 milioni di sacchi di caffè. All'inizio del 2010 abbiamo prodotto, sotto la media, 3,1 milioni di sacchi di caffè. E infatti il caffè è stato uno degli ETC con la maggiore performance quest'anno. Quindi diciamo la tendenza delle quotazioni del caffè ha risposto esattamente alle regole della domanda e dell'offerta, con un'offerta in calo i prezzi salgono. Okay. Ma attenzione, a fine 2010 si prevede, perché il fenomeno La Niña in Brasile potrebbe, e in Colombia potrebbe ancora deteriorare la qualità della produzione, la qualità del caffè, si prevedono 1,7 milioni di sacchi di caffè, quindi ancora di meno, quindi la produzione quasi dimezzata rispetto all'inizio 2010 e dimezzata rispetto alla media. Pertanto, visto che il mondo ne è un consumatore incredibile, le ripercussioni ci saranno inevitabilmente ancora sulle quotazioni e sui prezzi. Ci sono due fenomeni da notare sul caffè, esattamente questo. Dunque la prima è 2 miliardi di persone in Asia stanno passando poco a poco da un'abitudine orientale a un'abitudine occidentale, il quindi stanno letteralmente bevendo meno tè e bevendo più caffè. Così stanno un po' più svegli e lavorano anche un po' di più, tanto se la produttività fosse bassa là ci vorrebbe anche un incentivo ulteriore, Siano, no? Esatto, quindi moltiplichiamo le tazzine per 2 miliardi e possiamo notare come il consumo mondiale di caffè sia oggettivamente in aumento. La seconda cosa è quest'anno dal punto di vista climatico è stato un anno assolutamente insomma poco produttivo per quanto riguarda le materie prime, quindi ha fatto sì che le materie prime agricole riducessero l'offerta disponibile, in sostanza. Esatto, quindi il prezzo delle materie prime agricole è sostanzialmente aumentato in parecchi casi con percentuali superiori al 50%. Il caffè, il secondo produttore al mondo di caffè è il Vietnam, e quest'anno, oltre ai fenomeni naturali tragici avvenuti in Russia, in Australia E purtroppo alcuni non proprio naturali, ma causati dall'uomo nel Golfo del Messico. Abbiamo avuto anche i monsoni irregolari nel sud-est asiatico. Mm-hmm. E quindi il Vietnam, che è il secondo produttore al mondo di caffè, ha dovuto anche tagliare la produzione. E quindi il Brasile è il primo produttore al mondo e abbiamo il fenomeno della Niña. Quindi insomma, il caffè quest'anno è aumentato sostanzialmente per questo. Certo, motivo. Intanto alcuni ascoltatori ci stanno dicendo: dimenticate lo stagno che è raddoppiato nel 2010, ma ce ne siamo dimenticati tanto, perché sarebbe impossibile poter fare una trasmissione ed analizzare tutte le tendenze delle materie prime. Ci siamo dimenticati della farina, del molibdeno, dell'olio di palma, della gomma, del tungsteno, della pancetta congelata, del piombo, del cromo, ma quante ne potremmo raccontare. Però Paolo Kaufmann, per esempio, il cotone ha avuto un 2010 da brivido, con prezzi raddoppiati fino a livelli che non si vedevano dai tempi della guerra civile americana. E il cotone rischia di non avere ancora esaurito la sua corsa. Anche in questo caso la motivazione è il cambiamento delle abitudini, sempre verso più l'occidentale da parte dei cinesi, degli indiani? Ma questo, come dicevi in apertura di trasmissione, è senz'altro uno dei fattori. Dall'altro lato, nel caso del cotone, abbiamo anche qui l'effetto climatico. E quindi la distruzione di alcune piantagioni che hanno elevato i prezzi. Quindi direi che per l'investitore in questo caso è di assoluta importanza tenere sotto controllo gli aspetti climatici, gli aspetti naturali, perché i prezzi scontano in anticipo le possibili catastrofi, e quindi evidentemente quando poi queste si verificano i prezzi partono e in mercati tuttavia piuttosto piccoli e dalla liquidità piuttosto limitata gli effetti si vedono molto più che sui mercati azionari. Kaufmann, ho 30 secondi di tempo. Perché ritiene che la vera scommessa dei prossimi 24 mesi sia l'acciaio? Ma l'acciaio è una scommessa perché ha ancora prezzi piuttosto contenuti e a mio modo di vedere il fatto che sia stato quotato sul London Metal Exchange richiamerà da qui a 24 mesi l'interesse dell'investitore. Perché prima non c'era? Un metallo incluso nei principali panieri di investimento, infatti. No, questo ho visto. Non era l'acciaio non era quotato, e è stato quotato nel 2008, c'è stata una fase di stagnazione, nel 2010 i volumi hanno iniziato a mostrarsi e ritengo che da qui a 24 mesi anche le istituzioni finanziarie guarderanno l'acciaio con interesse. Tre secondi, proprio tre a Siano invece, per chiedergli quale sarà secondo lui la sorpresa del 2011. Guardi, mi collego al discorso sul natural gas. Era molto, molto sottile, dicevo, di diversificare il portafoglio petrolifero, non soltanto con natural gas, questo l'anno scorso, due anni fa, ma anche con il settore coal mining, il carbone. Benissimo. Tutti quanti hanno comprato il natural gas, che è stata la peggiore materia prima in termini di performance, e nessuno ha comprato il coal mining, che è stata la migliore in termini di performance. Adesso cambiamo? No. Invertiamo? No. No, non cambiamo, la mia idea non la cambio. Spero spero che gli investitori diversifichino di più il portafoglio e diano più attenzione alla diversificazione tra le materie prime energetiche, quindi nucleare e carbone. Devo fermarmi, adesso abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. Intanto vi anticipo che lunedì a Salvadanaio sarà nostro ospite il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua. Parleremo dei nuovi servizi telematici dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. La pillola di oggi, invece il concetto di oggi, è pensione supplementare. I lavoratori già titolari di una pensione che continuino ad esercitare un'attività lavorativa che preveda l'iscrizione alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati hanno diritto alla pensione supplementare in tale gestione al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini, a prescindere dagli anni di contribuzione versata. Inoltre, secondo le nuove regole fissate dalla legge 122/2010, potranno accedere alla pensione supplementare dal primo giorno successivo allo scadere dei 18 mesi. Salva Danaio termina qui, non riesco a far salutare i nostri ospiti di stamattina, li saluto io, li ringrazio molto, Massimo Siano di ETF Securities, Paolo Kaufmann, analista del mercato delle commodities Kaufmann & Sons. Io grazie a tutti per essere stati con noi ed aver animato oggi la nostra trasmissione. Salva Danaio torna, mi verrebbe da dire domani, ma direi lunedì, con il presidente dell'INPS. Buon fine settimana a tutti. We'll be right back.